Sono Fausto Bertinotti. Ogni anno muoiono sulle nostre strade oltre 5.000 persone e questo è davvero inaccettabile. La sicurezza stradale è un bene di tutti. Ricordalo sempre quando guidi la tua auto. Rispetta le regole, rispetta te stesso. Campagna a cura del Governo. Ministero dei Trasporti.